Ministro del welfare, è vero, sono bassi, la cosa non ci sfugge. Intanto prosegue l'iter della manovra in Parlamento. Calcio scommesse, un'altra pagina che non onora di certo lo sport italiano, dice il presidente del CONI Petrucci. Al via questa mattina gli interrogatori. Qualche computer in più nelle nostre case, siamo anche più collegati ad internet di un anno fa, secondo l'Istat, ma l'Italia resta lontana dalla media europea, siamo al pari della Lituania. 20 anni fa la morte di Walter Chiari, un grande della nostra TV e del nostro teatro, ormai dimenticato. Buongiorno dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Continua dunque il botta e risposta fra il ministro del welfare Elsa Fornero e i sindacati. La cronaca della mattinata dalla nostra Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno, non ho mai citato l'articolo 18, ma non ci sono terreni inesplorati, il mercato del lavoro va cambiato, il ministro del welfare Elsa Fornero torna così sulla polemica che l'ha contrapposta ai sindacati, in particolare sulla norma che riguarda i licenziamenti per giusta causa nelle aziende sopra i 15 dipendenti, ma citata la norma, dice, riferendosi all'intervista del Corriere della Sera di domenica, in quella che sembra una parziale frenata. In quell'intervista spiega la Fornero c'era solo un invito al dialogo, poi aggiunge che occorrerà comunque aumentare i salari perché sono troppo bassi e troppo il divario nella distribuzione dei redditi, divario cresciuto negli ultimi 15-20 anni. Di fatto questa è una risposta alla richiesta avanzata dal leader della CISL Bonanni, che ancora oggi è tornato a sfidare il ministro su questo tema. Ministro che ha parlato di tutto questo in commissione al Senato questa mattina, mentre è attesa qui ad un convegno alla Federazione Nazionale della Stampa, dove potrebbe rilasciare altre dichiarazioni. Quindi da Roma per il momento è tutto, a voi. Grazie ad Alessandra Schepisi. Intanto prosegue l'iter della manovra in Parlamento, in diretta con noi Elisabetta Fiorito. Sì, il centro-sinistra alle prese proprio con l'articolo 18, il centro-destra invece con l'IMU. Il segretario del PD Pierluigi Bersani è sorpreso dalle parole del ministro del welfare Elsa Fornero, così complica tutto, parliamone dopo Natale, dopo la botta sulle pensioni bisogna andare cauti. Intanto l'Italia dei Valori si smarca sempre di più, Antonio Di Pietro spiega che le coalizioni si valutano al momento delle elezioni in base alle posizioni che hanno tenuto ciascun partito e alla legge elettorale. Nel centro-destra il PDL invece cerca di recuperare il consenso con la Lega. Silvio Berlusconi si lamenta con i suoi delle troppe tasse messe dal governo Monti, dispiaciuto per le classi più povere. Se avessi fatto io questa manovra mi avrebbero linciato, dice il Cavaliere. Si vota nel 2013 e torneremo a Palazzo Chigi. Ma dal Carroccio Roberto Calderoli attacca l'ex Premier, cialtrone, patacaro, chi dice che l'IMU è nata con il federalismo. Il nostro federalismo fiscale prevedeva proprio il contrario, ovvero il divieto di tassare la prima casa. Questo governo attacca comuni e cittadini con la chiara volontà di mettere una pietra tombale sul federalismo fiscale. Cerca di venire incontro alla Lega il governatore della Lombardia Roberto Formigoni, facciamo il PDL del Nord, il partito sia più attento ai territori. Per il momento qui da Roma è tutto, voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. La Lega è dunque pronta allo sciopero fiscale contro l'IMU, alcuni sindaci del Carroccio annunciano che non la faranno pagare ai propri cittadini, anche secondo Attilio Fontana, primo cittadino leghista di Varese, questa formulazione dell'IMU tradisce lo spirito federalista, ma non è possibile rinunciarvi. Sentiamolo al microfono di Valeria De Rosa. Anche da un punto di vista lessicale, IMU significa imposta municipale unica. Dopo questa nuova formulazione, gran parte dei soldi che vengono raccolti da questa imposta viene trasferito a Roma. Allora non si tratta più di un'imposta municipale, ma si tratta di un'imposta centralista. E allora è chiaro che se questa è la partenza, ciò significa che si è tradito lo spirito e della tassazione e soprattutto del federalismo. Detto questo, lei dice un'utile provocazione, però io non ne posso fare a meno come sindaco. È un'utilissima provocazione. Vede, la cosa che mi ha offeso di più è che io incontro i miei cittadini per strada che mi dicono: caro sindaco, adesso lei sarà contento perché le hanno restituito l'ICI. Questa è la dimostrazione che, oltre ad averci invece tagliato delle risorse, ci hanno anche un po' preso in giro. Bisogna riformare il mercato del lavoro per agevolare l'ingresso dei giovani, lo ha detto il Presidente della Commissione europea Barroso, presentando la nuova iniziativa di Bruxelles per combattere la disoccupazione giovanile. Il Parlamento ungherese ha adottato una manovra d'austerità per il 2012, mentre il governo è impegnato nella richiesta al Fondo Monetario Internazionale e all'Unione Europea di un nuovo prestito contro la crisi. Il primo ministro magiaro, Viktor Orban, punta per il prossimo anno ad un deficit pubblico che non superi il 2,5% del prodotto interno lordo. Intanto in Gran Bretagna cresce il fronte delle critiche alla decisione del governo di non aderire all'Unione Fiscale Europea. In un primo momento a prendersela con il premier conservatore Cameron, che ha deciso di lasciar fuori il suo paese dalla nuova stretta di bilancio dell'Unione Europea, erano stati i suoi nemici politici, i laburisti. E fin qua niente di strano. Qualche crepa però si è aperta anche tra i liberal democratici, alleati di Cameron, ed europeisti convinti. Quindi è stato il turno dei mezzi di informazione, autorevoli come The Economist e Financial Times, a mettere in guardia Londra dal rischio isolamento. Adesso a scendere in campo è un gruppo di imprenditori con una lettera al Telegraph. Il rifiuto di Londra di aderire al nuovo patto fiscale europeo mette a rischio oltre 3 milioni di posti di lavoro, scrivono i capitani d'industria del calibro di Richard Branson, patron della Virgin, e Mike Rake di British Telecom. I 20 imprenditori invitano Cameron a tornare al tavolo dei negoziati europei. È nel nostro interesse che l'euro sopravviva, visto che, spiegano, il mercato europeo rappresenta oltre la metà delle nostre transazioni commerciali. E così aumenta il pressing su Londra, che ha appena annunciato di non aderire nemmeno all'aumento di capitale del Fondo Salva Stati. Alessio Maurizi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E chiudiamo questa lunga pagina politico-economica ricordandovi che prosegue il nostro Radio Day dedicato alla crisi e alla manovra. Deborah Rosciani, che avete sentito fino a poco fa, tornerà alle 15 con le domande degli ascoltatori e soprattutto le risposte degli esperti. In coda a questo GR torna invece il dizionario della crisi. E noi siamo alla cronaca con la vicenda calcio scommesse, gli aggiornamenti. Giornata di interrogatori oggi per l'inchiesta Last Bet della Procura di Cremona. In giornata saranno sentiti Alessandro Zamperini e Filippo Carobbio, due dei 17 arrestati. Sono entrambi accusati di aver truccato diverse partite. Zamperini in particolare avrebbe cercato di aggiustare il risultato della partita di Coppa Italia fra Gubbio e Cesena del 30 novembre scorso, ma avrebbe anche avuto rapporti con Eng Tan Set, detto Dan, cittadino di Singapore ritenuto a capo dell'organizzazione. Nell'inchiesta i riferimenti con l'estero non finiscono con lui. Sotto la lente degli inquirenti ci sarebbero infatti anche alcune scommesse fatte in Inghilterra sull'Albino Leffe, mentre altre tracce porterebbero verso la mafia dei paesi dell'est. Dalle intercettazioni spunta poi anche a sorpresa il nome di Fantozzi, il celebre personaggio di Paolo Villaggio. In particolare, in una conversazione telefonica, è Cristiano Doni a chiedere all'ex preparatore atletico della Ravenna, Santoni, di parlare per precauzione in falsetto per non essere riconosciuto, proprio come in una nota gag del film Fantozzi contro tutti, un trucco però fallito miseramente sia per lo sfortunato ragioniere interpretato da Villaggio sia per Doni e Santoni. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Arrestato Carlo Cetera, primario 62enne di ostetricia e ginecologia all'ospedale di Pieve di Cadore nel Bellunese. Il medico chiedeva tangenti ai pazienti per ottenere posizioni migliori nelle liste d'attesa nella procreazione assistita. Il primario induceva le coppie a pagare sino a 2.500 euro per ogni tentativo di procreazione assistita, riducendo a pochi mesi, in cambio, una lista d'attesa pubblica normalmente pari a 2 anni. Lo specialista è accusato di concussione aggravata e continuata oltre ad interruzione di pubblico servizio. A Firenze il funerale islamico dei 2 ambulanti senegalesi uccisi dal militante di estrema destra Gianluca Casseri. Domani il rimpatrio in Senegal delle salme. Le bare partiranno da Bologna. Intanto al mercato di San Lorenzo è stata avviata una raccolta di fondi per aiutare le famiglie dei 2 senegalesi. Sentiamo le parole dell'imam di Firenze. Realmente la comunità è sempre stata viva. Può darsi non faceva notizia ad altri momenti, questo fa più notizia, ma la comunità veramente, in particolare di fronte a un morto, è solidale. Io vedo la comunità come si avvicina ai familiari, alla salma di chi è morto, anche se sono di nazioni diverse, se sono di culture diverse, ma di fronte alla morte lo vedo tutta la comunità unita. Sono passati 5 anni dalla notte fra il 20 e il 21 dicembre 2006, quando il medico Mario Riccio aiutò Pier Giorgio Welby a morire. Una battaglia e una polemica che va avanti da allora. Questa mattina, prima edizione, a fare un bilancio, la moglie di Pier Giorgio Welby, Mina Welby, al microfono di Anna Migliorati. Noi facciamo adesso questa forte battaglia per una buona legge, c'è il DDL Calabrò in terza lettura in Senato, non sappiamo che fine farà. In questo periodo si parla tanto di crisi, di misure anticrisi, ci sarà spazio per discutere anche di questi argomenti? Assolutamente, perché non c'è soltanto una crisi finanziaria, c'è proprio una crisi culturale. Suo marito le ha lasciato una grossa eredità, le battaglie da combattere, ma sì. Cosa le manca invece di lui? Di lui mi manca lui, ecco, la sua persona, il toccarlo, il suo corpo, il suo fisico. 5 anni dopo, che traguardo pensa di aver raggiunto? Il traguardo della sincera discussione dei cittadini anche sul morire. Io non dico il diritto di morire, ma il diritto di non soffrire. Questo credo che sia la cosa giusta a dirlo. Sale la quota di famiglie che nel 2011 rispetto al 2010 possiede un personal computer, dal 57,6% al 58,8%. E sale anche la quota di famiglie che ha accesso ad internet e una connessione a banda larga. Lo fa sapere l'Istat nel report Cittadini e Nuove Tecnologie. Nonostante dunque in Italia internet si trovi sempre di più nelle nostre case, il paese è ancora fra gli ultimi in Europa. L'Italia si posiziona infatti solo al 22° posto, con un valore pari al 62% ed equivalente a quello registrato dalla Lituania. Fra lavoratori e studenti ogni giorno si spostano in treno circa 3 milioni di persone. La situazione è sempre più difficile dopo i tagli delle ultime manovre. Alcuni casi eclatanti, come messo in evidenza da Legambiente, che da 6 anni monitora il mondo dei pendolari su rotaie. Il Veneto ha tagliato circa il 20% del servizio, un treno su 5, e aumenta le tariffe del 15%. La Lombardia non ha tagliato treni, ma ha aumentato le tariffe del 24% circa. Gabriele Nanni, di Legambiente Nazionale, uno dei due curatori del rapporto. Sentiamolo al microfono di Valeria De Rosa. Il Veneto è una di quelle regioni che da sempre mostra un interesse veramente scarso al settore ferroviario locale o comunque a quello dei pendolari. Quindi ogni anno noi diciamo, tra le grandi regioni ovviamente, che il Veneto è la peggiore, semplicemente perché stanzia, come anche quest'anno, lo 0,05% del proprio bilancio per risorse appunto dedicate a nuovi treni o a maggiori servizi. Quindi è inevitabile poi arrivare a questo punto, al 2011, con i tagli dei trasferimenti statali che non dobbiamo mai dimenticare, arrivare appunto a un aumento di biglietti così consistente e a un taglio del servizio. Al tempo stesso ricordiamo che anche una delle regioni con probabilmente il miglior progetto di ferrovie regionali in Italia. Altro caso, quello della Lombardia, qui non c'è un taglio per quel che riguarda i treni, però qui le tariffe aumenteranno di quasi il 24%. Sono già aumentate perché questi aumenti appunto riguardano il 2011, per la storia appunto delle ultime manovre dei vari governi che si sono succeduti. È stata una scelta, nel senso che comunque la regione Lombardia ha 600.000 viaggiatori al giorno, è stato deciso di aumentare i biglietti in parte con un aumento vero e proprio, in parte con un adeguamento all'inflazione, non tagliando altri servizi, cioè altri treni, semplicemente perché sarebbe stato il caos. È una scelta purtroppo anche in questo caso abbastanza obbligata, perché comunque la regione Lombardia è una di quelle che ha investito in valore assoluto di più negli ultimi 10 anni nel settore ferroviario locale, al tempo stesso non sono mai bastati questi soldi. Appello di Bonanni alla Fornero, si devono alzare i salari, il ministro del welfare è vero, sono bassi, la cosa non ci sfugge, intanto prosegue l'iter della manovra in Parlamento. Calcio scommesse, un'altra pagina che non onora di certo lo sport italiano, dice il presidente del CONI Petrucci, al via questa mattina gli interrogatori. Qualche computer in più nelle nostre case, siamo anche più collegati ad internet di un anno fa, secondo l'Istat, ma l'Italia resta lontana dalla media europea, siamo al pari della Lituania. La TV di Stato nordcoreana ha trasmesso le immagini della salma di Kim Jong-il, morto sabato, come sapete ormai, per un attacco cardiaco. Allora, per le ultime notizie ci colleghiamo con il corrispondente del Sole 24 Ore, Luca Vinciguerra, a Pechino. Buongiorno Luca. Sì, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Allora, questa mattina le immagini della salma di Kim Jong-il, ecco, il paese come reagisce a questo punto? Beh, guarda, sapere come reagisce il paese è una cosa piuttosto difficile, visto l'impermeabilità totale dei confini nordcoreani nei confronti del resto del mondo. Basti pensare come sono stati capaci di tenere nascosto per ben 48 ore la morte di Kim al mondo intero, cioè una cosa di cui non si è accorta neppure l'intelligence sudcoreana, che di solito è molto attenta e molto addentro gli affari dei cugini nemici del nord. Quindi la reazione, voglio dire, sarà sicuramente, per quello che conosco io la Corea del Nord, un paese che ho avuto modo di visitare in passato, il paese è impoverito, è frustrato, è avvilito. Sicuramente la gente della strada non crede in questo regime ormai da anni, è da almeno 20 anni, insomma, quando le carestie hanno cominciato a falcidiare. Certo. E quindi io ritengo che sarà un grande gioco da qui al 28 dicembre, giorno del funerale, nelle mani della propaganda, che è una delle propagande più forti del mondo. Che è quella che ci fa vedere le immagini di gente che piange, esatto, eccetera. Senti Luca, la Cina ha fatto sapere che non invierà alcuna delegazione ai funerali di Kim Jong-il, appunto, che si terranno il 28, come stavi dicendo, a Pyongyang. Cosa significa questo gesto? No, non ha alcun significato particolare. Direi che la cosa più importante, il vero gesto fatto dalla Cina oggi, è quello di riconoscere ufficialmente Kim Jong-un, il terzogenito e successore del leader scomparso, come futuro premier della Corea del Nord. Oggi c'è stato un endorsement molto chiaro. Kim Jong-un è un grande leader, un grande amico del popolo cinese e un grande sostenitore dello sviluppo del socialismo, che farà sicuramente un grande sforzo per pacificare la penisola coreana, ha detto oggi pomeriggio un portavoce del governo cinese. Questo è un passo molto importante, perché bisogna tenere presente che sicuramente in queste ore a Pyongyang è in corso una lotta di potere all'interno della ristrettissima cerchia di oligarchi che gestiscono il potere in Corea del Nord, per accaparrarsi delle posizioni di privilegio, delle posizioni di rendita nei nuovi assetti di potere. Quindi questo placet cinese sicuramente indica una strada chiara, cioè che il figlio di Kim Jong-il sarà il futuro premier, benché sia inesperto, benché sia giovane e appunto non abbia alcun tipo di pratica negli affari di Stato. Questa è la linea. La Cina resta l'unica alleata e l'unica fornitrice di medicinali, di cibo, di energia per un paese che ripete lo stemma delle forze. E quindi sicuramente chi governa oggi in Nord Corea dovrà dare retta al placet cinese, insomma, non certo. Grazie a Luca Vinci Guerra, corrispondente del Sole 24 Ore. Noi andiamo invece in Siria, perché ieri notizia molto importante, ma cui media, noi compresi, hanno dato poco conto, fagocitata dalla notizia della morte di Kim Jong-il. Bene, ieri dicevamo la Siria ha accettato gli osservatori arabi. Un passo in avanti oppure, come accusa l'opposizione siriana, solo una manovra per guadagnare tempo? Dopo 9 mesi di repressione e 5.000 morti, il regime di Damasco ha accettato ieri il piano della Lega Araba che prevede l'invio di osservatori. Un primo team dovrebbe arrivare già domani. Tra i loro futuri compiti ci sarà quello di monitorare il ritiro dell'esercito siriano dai centri assediati, la liberazione dei detenuti politici. Difficile che Damasco sia pronta a cedere su tutti i punti. Lo testimoniano le 120 vittime di ieri denunciate dagli attivisti e i continui arresti nei confronti dei dissidenti. Per quanto Damasco neghi di soffrire l'isolamento internazionale, le sanzioni, prima quelle europee e da novembre quelle della Lega Araba, hanno inferto un duro colpo all'economia siriana. Il regime sa che di questo passo rischia di non poter più pagare salari pubblici. Gli scontri armati tra esercito e la sedicente armata degli insorti non sono più episodi sporadici. Il paese sta lentamente scivolando verso una guerra civile che nessuno desidera, perché nessuno è pronto a sostenere un intervento militare come quello in Libia. Per ora quello che si cerca è un compromesso che scongiuri questo scenario potenzialmente esplosivo per tutta la regione. Roberto Bongiorni, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo in Italia. 12.500 posti disponibili per nuovi insegnanti, questa è la cifra stimata dal governo, che per bocca del ministro della pubblica istruzione Profumo ha fatto sapere ieri di essere intenzionato a riaprire i concorsi, così da svecchiare la classe insegnante. Dubbi però su questi numeri, cioè sui 12.500 posti disponibili, vengono avanzati dai sindacati, come ci racconta Domenico Pantaleo della CGL Scuola. Il precedente governo aveva fatto una previsione per il prossimo biennio, dopo le emissioni ruolo, le 65.000 emissioni ruolo, e cioè che nei prossimi anni, per effetto del pensionamento, avremmo avuto 20.000 docenti e 7.000 ATA. Queste erano le previsioni fatte dal precedente governo. Ora, naturalmente, queste previsioni vanno riviste alla luce di tre questioni. La prima sono le nuove norme sul pensionamento. Ovviamente, ritardando il pensionamento, significa che probabilmente quei 20.000 docenti e 7.000 ATA possono diminuire. Adesso noi non abbiamo dati certi, però intuiamo che potremmo avere una diminuzione di quel contingente. Il secondo problema è il fatto che l'unica possibilità è data dal pensionamento, perché per effetto delle manovre fatte da Tremonti noi abbiamo un meccanismo secondo il quale non si possono aumentare gli organici nella scuola, vengono bloccati sostanzialmente. Terzo problema, bisogna fare una valutazione precisa sulla rispondenza dei tagli che in questi anni sono stati realizzati alle previsioni del 133, perché sempre attraverso una legge è previsto che qualora tu non recuperi tutti i tagli, automaticamente scattano altri tagli fino a recuperare le somme eventualmente non realizzate. Per queste ragioni noi crediamo che sui numeri bisogna essere prudenti, occorre un monitoraggio preciso oggi sui posti effettivamente disponibili nel prossimo biennio. Bisogna stare attenti, San Chiapponi. Sì. San Chiapponi a una certa età diventano pericolosi, eh? Scusi, il suo quanti anni ha? Che età? Ha l'età massima del San Chiapponi americano. L'età massima? Sì. Bell'età, eh? Sì, bene. Quello che avete appena sentito, e molti di voi immagino che l'avranno anche riconosciuto, è uno stralcio del mitico sketch sul Sar Chiapone con Walter Chiari e Carlo Campanini. Un modo per ricordare il grande attore comico Walter Chiari, che morì 20 anni fa, il 20 dicembre 91. Grande pioniere della satira televisiva, Chiari è stato un po' dimenticato. L'unica biografia a lui dedicata è quella di Michele Sancisi, intitolata Walter Chiari, un animale da palcoscenico. Sentiamo Sancisi al microfono di Adriana Fracchia. Dimenticato, direi, è la parola giusta, perché Walter Chiari non è stato mai ricordato nemmeno a livello istituzionale, non c'è stato mai, diciamo, un teatro a lui intestato, un segno, insomma, di ricordo anche da parte della sua città. Ecco, ma dimenticato forse perché la vicenda giudiziaria in cui lui fu coinvolto in qualche modo ne ha segnato invece la brillante carriera che ha avuto? Ma certamente, diciamo, il clamoroso arresto del 70 mentre nasceva suo figlio Simone ha penalizzato molto la carriera di Walter Chiari, soprattutto a livello televisivo. Però c'è anche da dire che Walter era un uomo pieno di risorse e con una verve istrionica non comune, per cui si ricostruì anche allora e soprattutto in teatro, che era, diciamo, tra le sue tre grandi espressioni del suo talento, insomma, era quella che lui più prediligeva e non ne faceva mistero. Insomma, in teatro ripartito, ha riconquistato il favore del pubblico, sono degli anni 80 alcuni suoi record di incassi stagionali con spettacoli come Hai mai provato nell'acqua calda, per esempio, quindi insomma diciamo, ha avuto ancora una carriera importante anche successivamente, quindi diciamo questa dimenticanza più che ventennale forse è dovuta al fatto che Walter Chiari è un personaggio un po' sfuggente, non allineato, sicuramente un cane sciolto, insomma, anche politicamente, con una visione delle cose molto personali, ecco, forse anche per questo. Questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Fabio Cantadori. Prossimo GR24 alle 14. Vi lascio al nostro Radio Day, proseguiamo a raccontarvi, a spiegarvi le parole della crisi. In questo caso parliamo di credit crunch. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.